Oh, fratella mi segua. Oime, chi mi nasconde nella fate pupille il dolce lume? Forse l'invidia punte le deità d'averlo, per ch'io non sia quaggiù felice a pieno, mi tolgono il mirarvi luci beate liete, che sol col sguardo altrui bear potete. Ma che temi, mio core, ciò che vieta Pluton comanda amore. A lume più possente che vince uomini e dei, ben ubbidir dovrei. Che odo, poi me lasso, salvar forse a miei danni, con tal furor le furie innamorate per rapirmi il mio ben, ed io consento. Ma quali eclissi, oime, v'oscura? Raccai la legge e sei di grazia impennia. Troppo amor, dunque mi perdi ed io misera perdo il poter più godere di luce di vita e perdo insieme te d'ogni bene più caro mio consorte. Torna l'ombre di morte, infelice Euridice, né più sperrà di riveder le stelle, com'ai fia sordo a prieghi tuoi l'inferno. Dove te ne vai, mia vita? Questi orrori, da questi amati orrori, ma il mio grado mi tragge, mi conduce all'orizzonte.